Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Di fronte alla proposta di alzare l'età pensionabile per le donne, c'è chi evidenzia che le donne devono anche occuparsi dei figli. Vorrei ricordare che i figli si fanno in due e si crescono in due. E che non ha senso recuperare a fine carriera il tempo che si è scaricato da neomamma. A quel punto i figli sono già diventati adulti. Se il problema sono i figli da crescere, forse sarebbe più opportuno parlare di riduzione dell'orario di lavoro, di maternità e paternità più flessibili e più lunghe. Ma questa è un'altra storia. Andrea. Mi sembra che le divisioni tra uomini e donne sul lavoro familiare siano variabili da coppia a coppia. Personalmente non penso che mia moglie lavori più di me. Non si possono certo regolare per legge le collaborazioni in famiglia, né su questa base si possono regolamentare le pensioni. Sarebbe assolutamente anacronistico. Il doppio lavoro esiste solo sulla carta. Le donne non sono più quelle di 50 anni fa. Mauro. Sono un giovane studente e quindi sono lontano dalla pensione. Mi chiedo però in che modo andare in pensione a 60 anni anziché a 65 aiuterebbe le donne con figli. Se le donne hanno delle difficoltà maggiori per via dei figli o dei compiti di gestione della famiglia che cadono sulle loro spalle, forse sarebbe il caso di aiutarle quando hanno questi problemi e non di compensarle a posteriori con questa discriminazione che, tra l'altro, credo assicurerebbe loro una pensione più bassa rispetto a quella di noi uomini. Pietro. La professoressa di 59 anni che vorrebbe continuare a lavorare anche oltre i 60 anni sappia che la normativa le consente di restare sino ai 65. Anzi, se compie gli anni dopo il 1 settembre, sino a 66. Andare in pensione a 60 anni per le donne non è un obbligo, ma un diritto che non si è tenuti ad esercitare. Purtroppo l'esimio Brunetta ha partorito un provvedimento già in vigore, per cui l'amministrazione ha la facoltà di pensionare d'ufficio chi abbia raggiunto i 40 anni di contributi. Per cui la nostra professoressa, di 59 anni, potrebbe essere pensionata d'ufficio se ha raggiunto, anche con il riscatto laurea, i 40 anni. Si sta predisponendo un provvedimento che consentirebbe a chi ha raggiunto i 35 anni di contribuzione di cessare per 5 anni dal servizio al 50% dello stipendio, con contribuzione completa e possibilità di fare altro lavoro, purché non per la pubblica amministrazione. Ennio. La tutela della donna non si garantisce certo con l'andare prima o dopo in pensione. Nel nostro paese la famiglia e i soggetti deboli sono tutelati dall'articolo 3 della Costituzione, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Basti pensare ai bellissimi programmi per la tutela della natalità che ci sono in Francia e che hanno fatto sì che la Francia divenisse il paese con il più alto tasso di natalità. Questi programmi affrontano tutto nell'etica generale della tutela del nascituro e della gestione generale e organica, tenendo presenti le differenze che possono esserci nelle famiglie e quindi prevedendo assegni alla famiglia e asili diversificati in funzione degli orari di lavoro o dello stato di disoccupazione. Insomma, vi è modularità nell'interesse generale, ma avendo ben presenti le diverse situazioni economiche, organizzative, sociali, logistiche, eccetera. Basti pensare che qui da noi, se si è disoccupati, non si entra nemmeno in graduatoria per un asilo nido. Tutto questo è semplificativo di una realtà che non tiene conto delle reali diversità dei soggetti e delle varie contingenze che una persona attraversa nel corso della sua vita. E qui vorrei parlare del mio caso personale. Io vivo con i miei genitori non autosufficienti per gravi patologie, Alzheimer e Parkinson. Ho moglie e due figli minori. E, come se non bastasse, il sistema dei servizi scarica su di noi tutti i costi e non ci fornisce risposte. Tutto questo, naturalmente, ricade su uomini, padri, donne, madri, figli, che non hanno la possibilità di avere un presente, né tantomeno un futuro, con tutto quello che ne consegue. Altro che pensione a 65 anni. Insomma, il problema non è certo se le donne andranno in pensione dopo. I problemi ci sono prima. Ne vogliamo parlare? Stefano. Egregio direttore, ascoltare le lettere degli ascoltatori è uno dei migliori modi per avere il polso di questo paese e per capire come le cose vengono percepite. Lunedì mattina, molto presto, mentre mi recavo al lavoro, ho ascoltato due fra le tante lettere che leggete nella vostra trasmissione. Due lettere che mi hanno fatto pensare. La prima era quella che raccontava di come un parente di un ascoltatore che vive in Venezuela vedeva noi italiani e cosa raccontano di noi nel suo paese. La seconda era quella di un ascoltatore che le rimproverava una certa reticenza a parlare della Cina e del pericolo che essa rappresenta per tutti noi. Lettera alla quale lei ha risposto. Le due lettere erano entrambe interessanti e sono tra loro in qualche modo collegate. Le spiego il perché. Dubito che l'ascoltatore che paventava il pericolo cinese avesse ragione. Se non altro, esagerava dicendo che Radio 24 non avesse mai trattato l'argomento. D'altro canto, mi ha fatto pensare che, a prescindere dalla crisi in atto negli ultimi due mesi, solo l'Italia era menzionata nei telegiornali venezuelani come un paese in crisi o con seri problemi. Perché l'Italia e non la Germania, la Francia, la Grecia o il Portogallo? Le dico io il perché. E qui mi riallaccio alle accuse che l'ascoltatore le faceva a proposito della Cina. In Italia l'introduzione dell'euro ha portato all'impoverimento di una larga fascia di popolazione italiana, determinando l'aumento dei costi di moltissimi beni e servizi, aumento al quale non è corrisposto un adeguato incremento delle retribuzioni. Questo non va confuso con la crisi di questi ultimi due mesi. Le famiglie che non arrivano alla terza settimana c'erano anche quando si insediò il governo Prodi, ed erano un'emergenza già allora. Oggi la situazione è solo peggiorata. La domanda che pochi si sono fatti, e alla quale neanche dalla sua radio ho mai sentito una risposta conveniente, è: ma come abbiamo fatto noi italiani a ridurci in questa situazione? Com'è possibile che negli anni Ottanta avessimo un'inflazione a due cifre e, nonostante tutto, anche gli operai riuscivano ad arrivare a fine mese? Tiravano un po' la cinghia, ma ci stavano dentro. Allora gli stipendi erano in lire e adesso che sono in euro, non ce la si fa più. Perché? Cosa è successo? A questa domanda neanche voi avete mai risposto. Che il costo della vita sia aumentato a dismisura negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Lo ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica lo scorso 31 dicembre, nel discorso di fine anno. Proprio tutti ci siamo accorti che i conti non tornano più. Tutti, eccetto solo un ente. E guarda caso è proprio l'ente predisposto a stabilire e certificare il livello di inflazione al quale sono legati gli aumenti di stipendi e pensioni dei lavoratori, soprattutto di quelli dipendenti. Per l'Istat, gli aumenti in questi anni, dall'introduzione dell'euro, sono stati fra l'1,5 e il 3%, poco più o poco meno. Il paniere sul quale si sono basati è falsato e non rispecchia i costi veri ai quali vanno incontro le famiglie. Non sono i prezzi delle zucchine o dei peperoni, tanto strombazzati da certa stampa, il vero problema, ma tutto il resto che non compare nel paniere Istat o che vi compare in modo risibile. Penso agli affitti, che sono raddoppiati, alle parcelle dei professionisti, alle multe e a tutte quelle spese extra che, anche se sono extra, capitano ogni mese. Capisco che era importante rispettare i parametri dell'Unione Europea. Avere un'inflazione bassa era un must, indipendentemente dal colore del governo in carica. Ma adesso i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un paese che non ce la fa più. L'entrata dell'Italia nell'euro è stata pagata dai lavoratori dipendenti, con stipendi che si sono via via assottigliati, e con un Istat che certificava un'inflazione irreale. La decurtazione degli stipendi, gli aumenti non adeguati all'inflazione reale, hanno svolto in Italia il compito che nel passato era svolto dalla svalutazione della lira, per rimanere competitivi verso l'estero. Quella però era più equa, la svalutazione c'era per tutti. Qui adesso invece pagano solo le fasce più deboli. Questa è la verità che io vedo, ma della quale nessuno parla. Si parla solo degli effetti e non delle cause. Andy. Che senso ha abbassare ancora i limiti di tasso alcolemico nel sangue quando poi gli incidenti mortali vengono causati da persone che hanno tassi superiori di 10-15 volte il consentito? Forse che a questi farà paura la nuova legge? O continueranno ad essere irresponsabili? Il problema, forse, è controllare e punire, non impedire a chiunque di arrivare a casa dopo aver mangiato come un gargantua e avere consumato in 4 un litro di Barolo. Francesco. Thank you. scrivo in relazione alla possibilità di imporre nuovi limiti al valore tollerato per il test alcolemico, che è notoriamente soggettivo. Premesso che le cause che possono alterare le capacità di guida sono molteplici e vanno dallo stato fisico condizionato da alcol, droghe, stanchezza e quant'altro, allo stato psichico quale depressione, alterazione psichica e chi più ne ha più ne metta, intendo proporre un metodo ben più completo, economico e preciso per valutare l'attitudine alla guida. Propongo di misurare non le singole cause, ma l'effetto. Il parametro fondamentale per guidare è il tempo di reazione agli eventi. Per cui, misurando il tempo di reazione, si decide se una persona può guidare o meno, qualunque siano le cause del suo stato. Per fare questo, basterebbe un apparecchietto elettronico portatile di poco prezzo, con una luce rossa, una luce verde e un pulsante. All'accendersi della luce rossa, si pigia il pulsante. Se ciò viene fatto entro un certo tempo, ok, altrimenti le reazioni sono troppo lente. Sergio. Salve, mi chiamo Paolo e sono uno dei tanti cittadini che stanno cercando di contrattare il proprio mutuo attraverso una surroga. Dopo una preliminare consultazione sul sito Mutui Online per valutare la miglior offerta rapidamente, ho deciso di prendere in considerazione quella della BNL, che sembrava molto favorevole alle mie esigenze. Recatomi in banca, ricevo le normali delucidazioni sulle specifiche del mutuo e, rimanendone convinto, la banca mette in moto la procedura di fattibilità. Dopo una settimana ricevo una telefonata da parte del funzionario che mi comunicava che la mia situazione non era problematica, ma che erano state variate delle condizioni iniziali, modificando l'importo della rata prevista. Con mia ingenuità ho subito pensato a un ribasso, visto l'abbassamento dei tassi che si sta verificando in questi ultimi tempi. In effetti, il tasso IRS a 30 anni è notevolmente calato, tasso che pesa enormemente nella quotazione della rata finale. Invece, con mia enorme sorpresa, il funzionario mi comunica che la rata è aumentata, perché la banca ha ritenuto giusto aumentare lo spread, ovvero il proprio guadagno, da 1,10 a 1,25. Adesso, trascurando la mia reazione in quel momento, penso che sia fortemente immorale ciò che è accaduto. In un periodo di recessione come questo, invece di venire incontro ai cittadini, le banche pensano solo ai loro interessi, generando un sistema sicuramente non etico di speculazione. Vi segnalo che successivamente ho contattato altre 5 banche e tutte e 5 avevano alzato lo spread fino a 1,25, facendo lievitare le rate di un mutuo fisso a 30 anni. Paolo. Volevo segnalare la mia piena e totale soddisfazione nel constatare che abbiamo finalmente un ministro, Renato Brunetta, in grado di svegliare il pachiderma della pubblica amministrazione. Sono anche d'accordo con le ultime disposizioni riguardo l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, ovvero parità di diritti e parità di doveri. Federico. A proposito della scarpata lanciata a Bush da un giornalista iracheno, c'è chi ha detto che in Occidente queste cose non si fanno. Ricordo che da noi hanno tirato un treppiede al presidente del Consiglio. La rabbia dei popoli è sopita, ma esiste. Andrea. Vorrei proprio vedere se sotto Saddam il cosiddetto giornalista avrebbe potuto tirare una scarpa a qualcuno. È proprio vero, qualcuno la libertà non la sa proprio apprezzare. A parte la libertà di farsi una grande pubblicità, grazie ai media gonzi che abboccano. Adriano. Quando parliamo di Islam e della possibile integrazione all'interno della nostra società, bisognerebbe porsi la seguente domanda. Siamo disposti a rinunciare a quelle che sono le più importanti conquiste del XX secolo in fatto di libertà individuali, uguaglianza tra uomo e donna, stato laico, eccetera? La storia insegna che certe conquiste non sono mai un corredo inesauribile. Massimo da Grosseto. Egregio direttore, qualche sera fa, facendo un ultimo zapping serale, mi sono imbattuto in Porta a Porta proprio nel momento in cui si parlava di reintrodurre lo scalone pensionistico. Sintetizzo la motivazione a sostegno della reintroduzione. La riforma Prodi costa 10 miliardi di euro che oggi, vista la recessione, possono essere investiti in modo diverso. Tutte le volte che sento parlare o leggo di problemi pensionistici, Mi chiedo se l'idea per cui bisogna allungare la vita lavorativa non si scontri con la triste realtà del mondo del lavoro. Ovvero, le aziende puntano da anni, e oggi più che mai, vista la crisi economica, a scaricare gli over 50, in quanto più costosi e meno produttivi dei giovani. Mi scusi la semplificazione, ma lo faccio per sintetizzare. Queste persone, che spesso sono quadri o dirigenti, trovano, soprattutto di questi tempi, grandi difficoltà a riciclarsi e vivono tempi grami, in quanto troppo giovani per l'INPS e troppo vecchi per le proprie aziende, alle quali hanno dato molto nel corso degli anni. In tutto questo, il massimo della contraddizione è riscontrabile quindi, a mio avviso, fra la linea di Confindustria, che propone di prolungare la vita lavorativa, e il comportamento dei suoi iscritti, che tendono invece a scaricare. La prego di considerare la mia lettera scevra da ogni ideologia. Personalmente cerco, da qualche anno, di guardare le cose del mondo con l'occhio di chi scorge che, talvolta, il re è nudo. Francesco. Caro Francesco, a proposito delle pensioni, lei mi fa notare come sia una contraddizione che gli imprenditori chiedono una riforma per ridurre i costi e innalzare l'età pensionabile, mentre nelle loro imprese riducono il personale cercando di colpire soprattutto quelli meno giovani. Vede, se può essere vero che alcune imprese in difficoltà o in ristrutturazione possono aver elaborato dei piani di riduzione del personale, questo non è vero per fortuna per la generalità delle imprese, anzi la grande maggioranza non può che vedere nel loro personale la risorsa fondamentale per il lavoro e per la crescita. In linea generale quindi non c'è nessuna contraddizione, c'è la realtà di un sistema pensionistico italiano che è molto generoso e molto costoso e che non si è voluto adeguare alla nuova realtà della popolazione in cui aumenta notevolmente e fortunatamente la speranza di vita, in cui si riducono notevolmente i lavori usuranti che meritano certamente una particolare tutela, in cui la pensione anticipata rischia di essere un incentivo al lavoro nero e quindi all'evasione fiscale. In Italia la spesa sociale è percentualmente a livello degli altri paesi europei, ma è una spesa molto sbilanciata verso gli anziani e molto più bassa per le famiglie e i giovani. In Italia è ancora possibile andare in pensione a 58-59 anni, mentre in altri paesi si discute se alzare l'età pensionabile dai 65 attuali ai 67-68 anni. Di fronte alle prospettive grigie dell'economia, la possibilità di cercare con una riforma delle pensioni nuove risorse per garantire i redditi dei lavoratori giovani e precari mi sembra quindi una proposta realisticamente corretta. Mentre non è corretto pensare che i lavoratori siano un peso per le imprese. Non dimentichiamo che chi porta esperienza, conoscenza e professionalità può aiutare la propria impresa a crescere e quindi a creare nuovi posti di lavoro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.